ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. A frotte, in coppia o solitarie, d'estate colorano il paesaggio. Verso rotte montane o arenarie. Sulla sella, altra cosa è il viaggio. Alessandro Ricci, borracce di poesia. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Buon pomeriggio, continuiamo anche in questa puntata a parlare di viaggi, di vacanze, perché i luoghi che si possono scoprire pedalando nel nostro paese sono davvero tanti. Vogliamo anche rispondere ai numerosi ascoltatori che ci scrivono, ci chiedono consigli su itinerari cicloturistici. Oggi due suggerimenti: la ciclabile dell'Adige con giro libero, tour operator specializzato in vacanze facili in bicicletta, itinerario accessibile davvero a tutti, inserito volendo anche in un percorso più lungo che va da nord di Bolzano fino a Verona passando per il lago di Garda. E poi con due amici, Vero e Leo del blog Life in Travel, impariamo a organizzare un viaggio in bici in autonomia. E allora buon pomeriggio a Licia Arvati, tour leader di Giro Libero. Buon pomeriggio. Licia, tu sei una delle massime esperte della ciclabile dell'Adige, l'hai percorsa innumerevoli volte, dacci qualche coordinata tecnica su questo itinerario. Io in particolare faccio una tratta che è la più panoramica. Siamo a nord del lago di Garda, in Trentino Alto Adige, e la ciclabile parte proprio da Bolzano, un po' più a nord della cittadina di Bolzano, fino ad un paesino che si trova appena dopo il confine del Trentino. Siamo già in Veneto. Il paesino si chiama Borghetto. La ciclabile è lunga 98 chilometri. Costeggia il fiume attraversando dal nord sud l'intera provincia di Trento. Una ciclabile dunque prevalentemente in sede propria, uno degli itinerari forse più facili in Italia. Mi viene in mente invece all'estero la ciclabile del Danubio, percorso accessibile naturalmente anche dalle famiglie con i bambini. Ricordiamo poi che stiamo parlando di un viaggio in cui ci si affida ad un'organizzazione che trasporta il bagaglio, quindi si viaggia leggeri, si viaggia facilmente e senza fatica. Infatti questa ciclabile io la consiglio anche alle famiglie, perché il dislivello non raggiunge nemmeno i 100 metri, spesso addirittura va in discesa. È una ciclabile molto semplice, molto panoramica, però adatta un po' a tutti. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle solo da lontano? Allora Alicia, raccontaci, tu che lo conosci bene questo percorso, cosa si incontra e cosa si riesce a vedere alla velocità del pedale. Intanto io dividerei la tappa in due, perché i primi 70-75 chilometri attraversano praticamente la prima parte della ciclabile da Bolzano a Trento, e dopo già 5 chilometri abbiamo due opzioni. Io le chiamo la variante hilly e la variante flat. La hilly vuol dire quella collinare, flat invece quella piana. La variante flat sarebbe quella che costeggia la ciclabile, dove si vedono dei punti panoramici impressionanti come Castel Firmian, altri castelli della zona che sono tutti quasi del XII secolo. Si raggiunge San Michele all'Adige, dove c'è uno dei più importanti musei etnografici del Trentino, e siamo al centro della chiamata Piana Rotaliana, dove è famosissimo il vino Teroldego. Vino rosso, giusto? Un vino rosso molto molto interessante, una DOC. Io sono anche sommelier a tempo perso, quindi mi destreggio tra bicicletta e vino. È un vino che consiglio. Che cosa suggerisci come abbinamento culinario? Beh, sicuramente è un vino abbastanza di corpo, quindi bisogna abbinare dei piatti abbastanza impegnativi. Io andrei sulla tradizione trentina, anche con dei primi piatti, magari con dei funghi oppure della cacciagione, tagliatelle anche, cose di questo tipo. E allora Alicia, con la pancia piena di tagliatelle e funghi, andiamo ad affrontare la variante, quella più faticosa. Ecco, se invece dopo i 5 chilometri da Bolzano si sceglie la variante hilly, cioè quella collinare, si vedono delle alture, bisogna avere un po' più di gamba perché ci sono circa 250 metri di dislivello, e si raggiungono dei punti di interesse che sono il castello di piano, sempre del XII secolo, e il lago di Caldaro. Ed estate è fantastico perché è fresca l'acqua, però io faccio sempre il bagno. La seconda parte invece sono circa 60 km da Trento a Riva del Garda, il dislivello complessivo è di 140 metri e da qui ci si addentra nella campagna del fondovalle. E il primo punto di interesse che si vede è Castel Beseno, la più grande fortezza medievale della regione, sorta proprio a guardia dell'Adige. C'è la cittadina di Mori, si incontra, che è conosciuta anche come la città del Marzemino, altro vino e vitigno tipico della zona, chiamato anche vino di Mozart perché è stato citato nell'opera Don Giovanni. E in questo punto siamo sulla vecchia ferrovia, cioè siamo sulla ciclabile che è stata trasformata in ciclabile, quindi da qua prendiamo la ciclabile che ci porta al lago di Garda facendo gli ultimi 13 chilometri. E qui immagino uno spettacolo mozzafiato. È uno spettacolo che a parole è difficile descrivere, perché si arriva dall'alto, si vede dall'alto proprio Torbole e Riva, e si vedono di solito d'estate tutti i velisti che fanno sport acquatici in acqua, quindi dall'alto si ha questo impatto che in ogni stagione dell'anno è sempre mozzafiato, insomma. È un bellissimo punto di arrivo. Ora continuiamo a parlare di viaggi, ma ci dedichiamo ai più avventurosi, a chi sceglie di pedalare portandosi il bagaglio a seguito in totale autonomia. Ma come si trasporta il bagaglio in bicicletta? Come si deve distribuire il peso? Cosa assolutamente non bisogna dimenticare? Ne parliamo con Veronica Rizzoli e Leonardo Corradini, Vero e Leo. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ciao a tutti e due di Life and Travel, un blog di viaggi e cicloturismo nato nel 2007, che per la verità io ho scoperto da poco, insomma, ma è pienissimo di consigli, di informazioni su itinerari, suggerimenti pratici per chi vuole andare alla scoperta del mondo in bicicletta, quindi davvero ricchissimo di contenuti. Allora, cerchiamo di capire come organizzare un bagaglio e un'attrezzatura per chi non vuole appoggiarsi ad un'organizzazione, a un tour operator, una sorta di vademecum per il viaggio ideale. Innanzitutto, Leo, cosa è indispensabile portare? Sì, allora. Cosa non deve mancare? A mio parere, una delle cose fondamentali da portare in un viaggio in bicicletta è sicuramente un qualcosa che ti possa proteggere dalle intemperie, quindi un qualcosa che protegga dalla pioggia, per esempio, quando c'è pioggia, perché di solito quando si parte per un viaggio in bici si è completamente esposti sia al sole che poi al maltempo, e quindi quando c'è il maltempo, sperando che poi non ci sia mai in realtà, però quando capita, essere ben protetti e viaggiare all'asciutto cambia davvero la giornata e la percezione del viaggio in bicicletta. E poi tutto il resto, noi viaggiamo stracarichi di solito, noi solitamente viaggiamo con le borse laterali, non con la modalità bikepacking, quindi con quelle borse più piccoline che oggi vanno tanto di moda e vengono tanto utilizzate, e quindi abbiamo un sacco di cose, dalla macchina fotografica ai vestiti, addirittura un drone l'ultima volta, quindi insomma noi viaggiamo parecchio carichi, però le cose fondamentali sono le cose che ti tengono all'asciutto durante tutto il viaggio, secondo me. E Veronica, per te invece cos'è che non deve proprio mancare? Io sono una... Magari dal punto di vista femminile può essere pure diverso, non lo so. Beh, io amo portare sempre dietro le salviettine umidificate per lavarsi la sera, perché a noi comunque piace tanto fare campeggio e a volte capita di farlo anche liberamente, quindi magari in un bosco, in qualche luogo un po' isolato, dove magari soprattutto in inverno non è molto consigliato fare il bagno magari in un torrente o ripulirsi in un rivolo d'acqua. Quindi sicuramente le salviettine umidificate, e poi io non lascerei mai a casa la tenda proprio per questo motivo, perché amo tantissimo dormire nella natura e quindi spingo sempre anche Leo, insomma, a fermarsi quando possiamo in un bosco o in un posto piacevole per piazzare la tenda. Che poi insomma una volta che sceglie il viaggio in bici in libertà, a quel punto insomma che sia libertà completa, quindi magari anche campeggio, no? Questa è proprio l'idea. Esatto. Così puoi fermarti proprio dove vuoi, non devi programmare le tappe e magari prenotare una struttura. Quanti chili vi portate? Rispondimi ancora tu, Veronica. Quanti chili vi portate sulla bici? Allora, ultimamente, vabbè, Leo ti diceva che viaggiamo molto carichi ed è vero, ma oltre a viaggiare carichi abbiamo aggiunto un ulteriore peso perché adesso viaggiamo con il nostro cane anche. Che pesa? Quanto pesa il cane? Nala pesa 20 kg, quando è in forma dai arriva ai 18 e Leo ha attaccato alla sua bici anche il carrellino per trasportare appunto Nala che pesa altri 17 kg, quindi già siamo a 37 kg la bici di Leo. Più il peso della bici, le borse, poi solitamente, cioè da quando viaggiamo con Nala, tendo io a portare la tenda, l'attrezzatura per appunto campeggiare, quindi il fornelletto, la bombola del gas, il cibo di Nala, quindi siamo, insomma, Leo sarà sui 40 kg almeno e anch'io sono intorno a quel peso, sì. E Leo, come si distribuiscono i pesi? Adesso al di là del carrellino, no? Cerchiamo un po' di capire, insomma, nella bici come si devono sistemare queste borse. Sì, allora, diciamo che l'ideale sarebbe tenere il peso sempre il più possibile vicino al baricentro della bici più la persona che c'è sopra. Per esempio, adesso dicevo, nel bikepacking, che sono queste borse che vengono attaccate al telaio direttamente senza portapacchi, questa cosa è più facile perché c'è una borsa che sta esattamente nel centro del telaio, c'è la borsa che sta nel sottosella e la borsa manubrio. Queste borse permettono di avere un bilanciamento ottimale tenendo sempre presente il fatto di tenere il peso il più in basso possibile nella borsa. Nelle borse invece quelle laterali, in generale l'ideale sarebbe avere sia le borse posteriori che le borse anteriori e caricare abbastanza anche l'anteriore, così da avere l'anteriore, la ruota anteriore bella piazzata in terra, diciamo abbastanza stabile, e quindi avere un 40-60 o addirittura 50-50 come peso, diciamo, tra le borse anteriori e le borse posteriori. Poi comunque borse impermeabili, no? Quello assolutamente. Noi consigliamo assolutamente di avere delle borse impermeabili, altrimenti ci sono anche borse non impermeabili con una custodia esterna, però ormai la tecnologia e le borse che ci sono in commercio, ce ne sono talmente tante di impermeabili che conviene, se uno deve partire con l'acquisto, partire bene, diciamo, e prendere le impermeabili. Il più bel viaggio in bici che avete fatto? Qua non so se siamo d'accordo, perché comunque ne abbiamo fatti tanti e a ogni modo sono stati tutti meravigliosi. Quello che io ho preferito e sogno ancora di tornarci è stato il viaggio sulle Ande, e abbiamo attraversato le Ande da Nazca a Salta, quindi dal Perù all'Argentina, per circa 3500 chilometri tra deserti, laghi salati in quota. Abbiamo sempre viaggiato a una quota tra i 4000 e i 5000 metri. È stato duro ma veramente meraviglioso, sia per paesaggi estremi dove veramente la natura ci ha messo a dura prova, ma dove ci siamo anche sentiti parte di questa natura così meravigliosa. Leonardo, tu? Sicuramente il viaggio sulle Ande è stato molto bello. Dai, devi dire che sei d'accordo. Infatti, devo per forza dire che sono d'accordo, altrimenti... Però dimmene un altro pure, allora, diciamo così. Come dico sempre, però, io abbiamo girato mezzo mondo, però poi abbiamo pedalato tanto anche in Italia e devo dire che l'Italia è sempre meravigliosa, è sempre bellissimo scoprirla in sella ad una bicicletta, quindi il viaggio che abbiamo fatto sugli Appennini in queste strade desolate e deserte è stato davvero magnifico, così come quasi tutte le volte in cui abbiamo pedalato in Italia, a me è piaciuto tantissimo, insomma. Perché un viaggio in bici? Beh, un viaggio in bici è pura libertà, è ritrovare se stessi, il proprio ritmo, il proprio bilanciamento anche, perché siamo abituati a vivere generalmente una vita piuttosto stressata, sempre a correre per il lavoro, per la famiglia, e il viaggio, diciamo, ristabilisce un equilibrio, perché puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, e poi mentre pedali hai la possibilità di ritrovare un po' la tua creatività. Le migliori idee che abbiamo avuto nella nostra vita probabilmente ci sono venute mentre stavamo pedalando. Leonardo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma beh, è stata bravissima vero a descriverlo. Direi soltanto che in un viaggio in bici quello che dico sempre io è che un territorio non lo si attraversa ma lo si vive proprio, perché si entra tantissimo a contatto con le persone, oltre a passare lentamente il paesaggio, insomma. Quindi questo è quello che ci fa amare così tanto viaggiare in bici. Grazie tantissimo a Leo, è vero? Vero è Leo, anzi, così è meglio. Giusto, vero è Leo, giusto? Grazie a te, Alessandra. Grazie. Grazie per tutti i consigli, buon pomeriggio e buone pedalate. Ciao a tutti, buone pedalate. E voi continuate a seguirci anche sulla pagina Facebook. Vi ricordo che potrete riascoltarci sempre in podcast. Grazie Alessandro Chiappini per la parte tecnica e buone pedalate a tutti.